Ok, adesso tu la senti da qui l'audio del computer? E ci dovrei mettere una cuffia. Sì, allora, prendi il coso. Non so se senti già qualcosa. Sì, ma c'è proprio sì. Guarda, sono arrivato già in ritardo. Sì. Sei registrato in ritardo, sì. Senti qualcosa? È arrivato in Ah ritardo. no, questo lo devo fare. Come fai, te la senti? Senti qualcosa? Sì. Senti, hai sentito? Arriva in ritardo. Sì, Senti un finché. po' il basso. Basso o basso? Adesso arriverà. Però Ah, ecco. arriva in ritardo. Suona un po'. Riprova che vediamo quanto ci mette. Adesso va. Però com'è l'audio? Buono? Senti tutte le note? Anche se è in ritardo? C'è molto ritardo, non so perché, non Sì. è così ritardo. Sì, Aspetta un attimo. sull'audio del basso c'è molto ritardo, mentre la voce no, si sente subito. Ma lui da dove sente adesso? Dal microfono di questo? Scusa un attimo che riconnetto, un secondo, scusa. Allora, questo intanto li montiamo. Io sento anche il metronomo. Sì, perché no, perché c'è nel tuo, forse devi mettere niente sotto lì. Ecco, Ok. scusate.